basta porsi una domanda. È stata approvata una legge sul conflitto di interessi. La domanda è: il Presidente del Consiglio potrà ancora avere le sue televisioni? Sì. Potrà controllare la RAI come Ministro del Tesoro e nominare il Consiglio di Amministrazione? Sì. Potrà raccogliere tutta la pubblicità? Sì. Ma addirittura c'è una domanda dirimente: nominerà lui i due presidenti delle autorità di garanzia che dovrebbero eventualmente sanzionarlo? Sì. Allora è evidente, non è una legge sul conflitto di interessi, ma è una legge truffa, e noi la solleveremo immediatamente nella sede del Parlamento europeo e in tutte le sedi delle autorità istituzionali. Il conflitto di interessi fu una maledizione per il centro-sinistra perché non lo affrontò con il dovuto rigore. Sarà la pietra tombale per il centrodestra. L'UDC ha fatto molto male a votare questa legge. Questa è una legge che unifica gli interessi nelle mani del Presidente del Consiglio, è una pugnalata alle spalle della libertà del mercato, di tanti altri industriali, editori, radio e televisioni. Il Presidente del Consiglio, usufruendo del doppio ruolo, potrà aumentare la sua presenza, grazie alla legge Gasparri, nelle televisioni, nelle radio e nei giornali. Gli altri non potranno farle. Mi pare una legge pessima dal punto di vista politico ed industriale. Per questa ragione noi stiamo già lavorando come articolo 21 per una grande iniziativa di decine e decine di europarlamentari, non solo della sinistra, ma anche ambientalisti, ma anche liberali e anche non pochi conservatori, affinché l'Europa voti immediatamente una direttiva sul conflitto di interessi che sia valida per tutti i paesi della Comunità Europea. E penso che ci saranno sorprese, buone sorprese. Già venerdì mattina alla Federazione della Stampa alle ore 12 un folto gruppo di giuristi si riunirà e annuncerà una serie di iniziative sul conflitto di interessi e sulla legge Gasparri.